E anche stavolta, con tutto quello che c'è da fa, stiamo qua. Mi sa che non arrivavamo manca alla dispo di sto no, bravo, pure loro. Frio. Oh mio Dio, sigla. Credi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. E bentornati anche oggi, sabato 11 di che mese? Di marzo. È una. Inceppata subito su Radio Forte 100 Celle Avengers, in diretta di nuovo, quando avevo detto che era meglio non farlo. Ma vabbè, mi tocca ammettere che in realtà l'aveva detto qualcun altro. Ho solo lo sguardo soddisfatto, non mi serve nient'altro. Ma non dire, mi dire io l'avevo detto è uno degli sport, diciamo, nazionali più inutili. Cioè è proprio una pratica odiosa, no? Che ci rende antipatici. Io solo così perdo calorie, però. Comunque, vabbè, diciamo che anche Virgil aveva detto, mi aveva forse dato un'ispirazione inconsciamente, che non era il caso di andare in onda oggi. Invece lo abbiamo fatto, e quindi anche oggi saluto alla mia destra la console sempre più attiva, Betta. Sono tornata, i volumi sono in salvo. Ed è subito un crogiuolo di applausi. Io volevo dare sta cosa degli applausi, invece. Mentre allora, Miss, te l'avevo detto, Virginia alla mia sinistra. A questo punto, niente applauso. Ciao. Ma potremmo far partire il brano che c'è. Io comunque non mi sento per nulla. Ecco, lo sapevo. Mamma mia, ormai è una gag. Dillo che è diventata una gag, sta cosa. Invece di salutare la giornalista faziosa Gabri Grubi. Buonasera. Si lamenta dell'audio. Buonasera. La sentite? La sentite da casa? Scriveteci sul nostro. Ma poi diciamolo sul nostro canale. Tanto lei non si sente. Tanto lei non si sente uguale. E salutiamo appresso la professoressa Viola. Buonasera, buonasera a tutti, cari. Vedi che non si lamenta, non fai niente. Gabri, cioè, sta allora lì che smane... Scusate, applauso che non si è lamentata, ok. Grazie. E dalle retrovie torna anche oggi il nostro espertone Franci. Ciao, ciao a tutti. Esperto di cosa? Di? Non lo so, di... Matematica. Numeri. Ah, numeri con la doppia M, signore e signori ascoltatrici e ascoltatori. E niente, tutto sembrerebbe andare per il meglio, se non fosse che non abbiamo salutato come al solito Iron Man e Alexa. Non l'abbiamo salutata. Li salutiamo anche oggi, i nostri ispiratori di sempre. Ma manca cosa? Un tema. Però voglio come dire. No? No, cioè, voglio dire che c'è e non c'è. Il tema come la pioggia, come la nebbia a Milano, cioè, ma non si vede. Insomma. Per fare un'alta citazione che Gabby non sta capendo, mi guarda che cazzo stai dicendo. No, io pensavo al. Il tema c'è, ma non si vede. Proprio che barba, Gabby. Che barba, che noia, no? Non era questo. No, davvero? Era okay. Questo? Maestra, no, era per questo che si è fatto la barba. Ma grazie. Allora. È vero. Grazie. Cose che non possono vedere gli ascoltatori. E che interessano soprattutto a molti. Ma quello che dicevo è che il tema è stato perseguito solo da una, diciamo, una dai più attenti, una piccola compagine della nostra redazione, a macchia di leopardo, diciamo. Abbiamo curato il tema che voleva essere il tempo che non ci abbiamo, diciamo, esatto. Che non abbiamo avuto, se non altro non tutti, per perseguire il tema. E quindi, cioè, Gabri, che di solito arriva all'ultimo, non si sa manco se viene, è stata l'unica che oggi ci ha riportato un po' a, no? Ma non dovevamo farla sul tempo a puntata, sì, no? Ho detto, ma non l'ho fatto comunque, quindi sono come non l'hai siamo fatto? Nella stessa parte. Anche lei sperava. Ma come, io me l'ho preparato, ero capito? Già pronto, questa è la puntata sul tempo. C'è questa gag bellissima, vorrei applauso per favore quando faccio le cose a tema. Vabbè, teniamo la gag. È tutto qui il tema che hai sviluppato, vero? Quindi sviluppato così con quindi ci traghetterai tu passo dopo passo nello sviluppo di questo tema, che comunque ci ha dato come al solito stimolo a tutti quanti sui vari fronti, certo, ma soprattutto ci stimola. Prego. No, tante rubriche che scandiranno il tempo di questa puntata, ecco. Madonna, no. Allora, togliete. Io non so togliete come fare la giornalista per levare... Gabri Grubi dalla console, perché non so è pericolosa. Fare. Comunque, quello che avevamo programmato era anche una prima canzone che andava sempre appresso a questo fatto del tempo, ma sì, solo per fare piacere a Gabby. In realtà questa è, come al solito, una puntata caotica e poco comprensibile per i meno abituati. Mi limito giusto a dire, Gabri, che potresti, prima di gettarci nel caos, lo so che mi guarda come ti ho avuto, prima tocca lavorare, potresti darci delle coordinate, dare a chi ci sta ascoltando modo di contattarci, di... Sì. No? Allora, zero, come, non te va proprio. Come tutte le settimane, tutte le puntate, vi lancio il nostro canale prediletto, che è quello Telegram. Guarda, ti alzo un po' il volume, vai. Ah, grazie. Dicevo io che non mi sentivo. Aveva ragione. È colpa mia. Vabbè, insomma, quindi. Sì, dicevo, il canale Telegram, scaricatelo, t.me/100CellAvengers. Scaricatelo cosa? Telegram. Se non lo avete fatto. Ogni volta lanciate i neologismi per sembrare giovane, ogni volta dice delle cose. Tipo mio papà. Vabbè. Scaricate Telegram, questa app, esatto, di comunicazione. Praticamente sì, l'altro giorno ho imparato un termine invece giovanissimo che vuol dire provare imbarazzo. Ovviamente non lo ricordo. Cringe, abbiamo parlato di cringe inferno. Ma niente, a te curi la rubrica tua, e poi ti metti proprio nel mondo tuo, non ti caghi. Abbiamo indugiato pure sul cringe inferno, me la sono presa più con la gente, no? Si droga, la droga si gente, ti ricordi? Ma erano sempre quelli di cringe inferno. Certo. E comunque anche io ho vissuto il tuo disagio, perché non sapevo neanche io bene cringe cos'era. Poi ho capito di essere io cringe, quindi. Vabbè, provare imbarazzo per gli altri. Quindi. Dovete chiederlo a Nord quando è così. Esatto, ne aveva parlato anche il Nord. Ne aveva parlato anche il Nord. Noi non stiamo attenti, questa è la verità, perché non abbiamo tempo. E allora andiamo. Allora, time is running out, è il modo per comunque vadano le cose, lui passa, quindi lui passa. Dobbiamo mi raccomando, tutte massime sul tempo, che... tempus fugit. Tanto abbiamo finito di parlare del tempo, se non sbaglio, per oggi, no? No, cioè, no, questo ne è solo l'inizio, davvero. Un puntatone. Okay. Assolutamente, tutto comincia così. Of me. Radio Forte, 100 Celle Avengers, ritorniamo in voce, abbiamo appena sentito i Muse, fatti col distorsore sul basso, come... Questo deve rompere tutta la puntata, yeah. Insomma. No, vabbè, tutti i nostri fans avranno riconosciuto il pezzo di cui già avevamo parlato la scorsa volta, Bullizzando Virgi. Non ti preoccupare, avremo occasione per bullizzarci tutti. Ma oggi appunto noi ne parliamo... da che è passata più di una settimana dal glorioso saggio d'inverno, ormai abbiamo tutto un altro stato d'animo col fatto che abbiamo fatto un applauso per questo saggio. Mamma mia, è stata cosa degli applausi veramente, guarda, sembra di stare da Floris, va bene, lo posso dire? Ok, ogni cagata un applauso. Sì. E comunque su questo ci stava in effetti l'applauso, perché vabbè, l'altra volta appunto avevamo uno stato d'animo essendo due settimane fa totalmente diverso, tutta un'ansia che in realtà io oggi ho, ma per un altro grande evento del Forte che non c'entra col saggio. L'altra settimana l'avevamo appunto per il saggio, che è avvenuto proprio il giorno dopo, vi ricordate? Abbiamo detto non andiamo in onda alla vigilia del saggio, che palle, cioè, ce l'abbiamo da fare, abbiamo da montare, e invece l'abbiamo fatto, vi ricordate tutta quella... Perché tutto questo me l'ha risvegliato. Perché il tempo è l'ora in bocca. Esatto. Allora in bocca. Allora in bocca. E comunque sì, questo me l'ha risvegliato appunto. Time is running out, appena trascorsa su Radio Forte 100 Cell Avengers, per perseguire il tema del tempo che io mi sto mangiando apposta per fare sì che la giornalista faziosa Gabby Grubbi sia in difficoltà. Eccoci. Nell'entrare in voce, nell'entrare in voce. La presentiamo? Presentiamola allora, perché al punto numero 2 io vado qua a punti oggi. Diciamo che comincia la rubrica. Va bene, allora iniziamo con la prima rubrica, che è Cigni di Balacà. E non ho che da mandare la sigla per poi iniziare a parlarvene. Sigla. You were my friend. Ma non lo senti? Che è uguale ai cigni di Balacà. Rieccoci in voce, siamo quindi alla puntata numero X di Cigni di Balacà e la rubrica che ci parla dei plagi musicali. Anche quest'oggi non parleremo di plagi musicali. Perché ti devi allargare? Perché andiamo sempre in distendere. Devi allargarti come un'azienda, come interessi. Direzione ostinata e contraria anche alle nostre stesse decisioni. Benissimo, quindi questa volta, ragazzi e ragazze, parliamo di quella volta che Phil Collins cantò in ben 5 lingue diverse. Applauso. Applauso. 5. Se lo chiami lo devo mettere, capito? Io sapevo che erano di più, davvero sono solo 5. Sì, sì, sono 5. Abbiamo fatto tutto questo scoop. Adesso sentirai, stai buonino e ascolta. Allora, Phil Collins, dicevamo, che è un artista, insomma, poliedrico, lo conosciamo, ha avuto un grandissimo successo sia come solista che nei Genesis, quindi molto eclettico. E piccola nota, insieme a Michael Jackson e Paul McCartney, ragazzi, i nostri carissimi amici. Paul e Mickey, cioè che veramente manco a farla apposta. E insieme a loro, Phil Collins è uno dei tre artisti ad aver venduto più dischi nella storia della discografia mondiale, attenzione. E mi andava di rimarcare che ti aspettavi che mettessi un applauso, sì. Chi ne ha bisogno, è giusto, giusto. Quindi però non tutti sanno, appunto, essendo molto eclettico, che Phil Collins ha prestato la sua voce anche per un film della Disney e, sì, in cui un cartone della Disney, brava Betta che sta sempre sul pezzo, in cui cantò appunto in 5 lingue diverse, mettendosi a dura prova. Stiamo parlando naturalmente del cartone Tarzan, uscito nel 1999. Sembrava molto più recente, invece sono trascorsi già tanti anni. Come passa il tempo quando ci si diverte. Sì. Che è uno dei classici Disney proprio più amati, eccetera. Quindi la colonna sonora che ci ha regalato Phil Collins in questo cartone molto molto particolare, quindi questa pellicola è molto particolare poiché, come dicevo, per la prima volta è stata registrata in più lingue per i diversi mercati dove poi il cartone sarebbe stato naturalmente distribuito, mentre di solito ogni stato si occupa di doppiare, ecco, e quindi di individuare un interprete, appunto un artista che interpreti il brano scritto generalmente dai parolieri della Disney, e questo fatto naturalmente lo dobbiamo dobbiamo alla buona volontà del cantante che, ci ha, che ha partecipato appunto di Phil Collins, e che volle cantare in oltre che in inglese, la propria lingua, anche in italiano, in francese, in tedesco e in spagnolo. Applauso, applauso. Wow. Subito, grazie. Grande film. È che se non li mandi li chiami, quindi è uguale. Sì. Quindi diciamo anche che le musiche sono state composte, probabilmente dicevo, vi dicevo prima anche le parole, da tale Mark Mancina, italiano figlio di immigrati negli Stati Uniti, e come interprete appunto ritroviamo Phil, che si cimenta in questo esperimento di poliglottismo. E fu una sfida particolarmente dura, perché le canzoni di Tarzan non sono direttamente cantate dai personaggi, ma servono a narrare le vicende e le sensazioni del momento, della particolare scena, e se non si capiscono, quindi ostacolano tutta l'impressione che si ha della storia, della trama del cartone. Per questo era particolarmente importante scandire bene le parole, soprattutto perché il film chiaramente era indirizzato ai bambini. Quindi io immagino quel momento in cui Phil Collins ha detto la canto io in tutte le lingue, tutti con la strizza, oddio. Fu proprio un'idea di Phil, sai, tra l'altro, che insistette proprio con i produttori del cartone per cantare in tutte le lingue. Eventuali quindi cambiamenti di voce col doppiaggio avrebbero chiaramente pregiudicato un po' la comprensione di tutta la pellicola. E quindi questo è un grandissimo regalo che ci ha fatto Phil Collins, perché, ripeto, il doppiaggio a volte altera un po' il risultato. Generalmente questo capita in Italia, lo sappiamo molto bene, patria del doppiaggio. In questo caso invece abbiamo un esempio alquanto raro, per la Disney probabilmente unico, di interpretazione autentica del personaggio, che è sempre lo stesso, la voce narrante in questo caso, o cantante, la voce cantante, è sempre se stesso senza alcun tipo di interposizione. Quindi bravo Phil Collins. Ma poiché non so, puoi far partire anche un applauso se vuoi. No, mia. Volevo entrare nel vivo perché mi era stata richiesta questa cosa dal maestro, appunto. Che perché non volevi fare. Che non volevo fare. E ora come capisco. Sempre. Perché siamo a Cigni di Balacà, quindi diciamo qualche nota di diritto la vogliamo sempre, ce la vogliamo sempre inserire. Come la mettiamo, Phil, con questi diritti di d'autore? Come la vogliamo mettere? Cioè, ci sta un jackpot per chi fa una cosa così. Oh, esatto. Cioè, lui ha vinto e stravinto. Non l'ha scritta lui la canzone, questo non l'ha vabbè. Scritta lui, ma l'ha interpretata. Sappiamo bene che ci sono anche i diritti connessi al diritto d'autore, che sono proprio quelli degli interpreti esecutori. E Phil è proprio uno di questi, che si è portato a casa ben 5 album diversi, perché sono proprio entrati nella sua, nel suo repertorio, naturalmente. E quindi possiamo dire che in questo caso ha quintuplicato i suoi guadagni, proprio perché l'ha cantato in queste 5 lingue. Secondo cosa me, che generalmente non accade. Secondo me aveva rosicato quando aveva fatto Il Re Leone, che poi l'aveva cantato Ivana Spagna in italiano, no? Ha detto no, adesso Tarzan me lo faccio io. Sì, no, infatti bisogna ricordare che tutto questo accade quando invece altri di Disney hanno il destino di finire nelle grinfie di Paola e Chiara, Gino Paoli, abbiamo anche Alex Baroni vari, con Hercules, comunque, per carità, cantantoni che però appunto ne hanno fatto. Ma poi dicevamo che quello del Re Leone è invece non è Phil Collins bensì Ivana Spagna, no? Elton John, scusate, applauso ad Elton John. Vabbè, quello che volevo dire comunque è che io sono vittima delle dicerie, delle leggende metropolitane, perché io mi ero veramente flashato e per quello ti dissi: oh, ma fai sta cosa su Phil Collins, perché erano più dei 5, mi ricordavo veramente che era, perché la Disney vende in tutto il mondo, proprio tipo veramente in 78 paesi del mondo, e non so, visto non si doppia in tutti i paesi come in Italia ovviamente, no. Però mi ricordavo più dei 5, per quello pensavo a un super jackpot, cioè l'avevo paragonato a quando appunto nella scorsa puntata o quella prima, non ricordo, abbiamo seguito Mina nel suo vendersi alla team, abbiamo detto quanti, cioè che vitalizio a lei e ai suoi parenti, ai suoi figli, dei figli può aver percepito Mina per fare tutto quel pezzettone per la Phil team. Phil ha vinto a mani basse. Vabbè, anche no, sicuramente Mina sta bene. Ha avuto un successo, e poi ricordiamo che lo spagnolo del resto è la lingua forse più parlata al mondo, penso che superi l'inglese. Sì, spagnolo, sì, Tarzan è Tarzan. Sì, ma io ricordavo proprio di aver visto come napoletano, appunto, sbagliando, però per un servizio dove si parlava di lingue pure. Guarda, a questo proposito, comunque, avevo anche notato questa curiosità, perché lui ha anche partecipato nel film, nel cartone Coda Fratello Orso, che tutti avrete sicuramente visto. E Phil lì canta, oltre che in spagnolo, francese, italiano, tedesco e inglese, anche in giapponese. Ma quindi ci prodigio tutto l'emisfero, tutto il mondo, praticamente. Ma in tutto ciò tempo sfuggit, ma non lo possiamo pure un po' sentire. No, così sì, lo metto no, di sottofondo. Io veramente volevo proprio lanciarlo. Ah, ok, allora lancialo. Però, va bene, andiamo allora direttamente a quella parte, perché del resto ci siamo arrivati. Pensavo ti fossi scordata, scusa. No, però mi sto anche attardando, quindi andiamo con il pezzo che ho già trovato mixato, devo confessare questa cosa, proprio perché è un argomento che ha incuriosito anche altre persone. Quindi su YouTube lo troviamo, questo mix di uno dei brani della colonna sonora di Tarzan, cantato nelle cinque lingue che abbiamo detto, e il brano in particolare è Figlio di un uomo, che parla della diversità, tra l'altro è un tema bellissimo, io l'ho riascoltato con piacere e ve lo dono. Quindi prego maestro, vai con Phil Collins in Figlio di un uomo, titolo in italiano ovviamente. Radio Forte, 100 Celle Avengers. Quanto mi piace quando lo stacchetto indovina la tonalità del pezzo che è appena finito, invece di sembrare una cosa, cioè tutto quelle finezze che notano calcolato soltanto alcuni. Ma avete sentito invece Phil Collins in francese quanto è piacevole? Cioè io farei musicoterapia con Phil Collins in francese. Phil Collins. Questa è una mia opinione, cioè poi salutiamo Phil che ci ascolta sempre. E alle 17:25 pare che sia già una di quelle giornate in cui si spiega presto, cioè nel senso il professore dice spiego presto perché poi siete stanchi, perché siete freschi alla prima ora, che siete freschi, la mente è più fresca. Ma non c'è la ci conferma la professoressa Viola, che è del mestiere, che la prima ora è la migliore per diciamo assimilare concetti non del tutto digeribili. Ecco perché io quella era l'ora in cui ancora dormivo. Io non ero proprio in classe. Io arrivavo sempre alla seconda ora. Ma professoressa, non si dice so, ad alta voce. Io cominciavo a mangiare cornetto sotto al banco. Beh, sì. Diversamente invece fa il professor Casali, pronto sui blocchetti di partenza dietro di noi. Oh, professore, non avete idea di quanto professore. È professionale là dietro. Che ci porta quest'oggi una nuova mediana, puntata di cultura. Ma, cioè, prego, ti puoi anche... Allora, oggi vi portiamo alla corte della regina e aspetta, dei suoi... aspetta, no, cioè... no, così? No, scusa, vai. No, al secondo tempo, me ci arrivava. Magari, secondo me ci arriva, è vero, scusate. Io ho la sindrome del presente che lancia la sigla. Malfidato. Ci arrivo. Ma solo perché sono... Dicevo, vi portiamo alla corte della regina e dei suoi preziosi numeri primi. Sigla! Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, ci interessa. Spiego. Comunque anche lui dice numero, l'ho sentito adesso. Quindi se lo dice lui, buon numero a tutti. Numero. Probabilmente anche Phil Collins. Però apri proprio. Solo doppiato. In francese. Solo in francese. Numero. Bene, allora, parliamo oggi, perché dicevo la regina, perché oggi parliamo della storia del celeberrimo brano dei Queen, We Will Rock You, e di come... E di come i numeri primi siano stati fondamentali nella sua realizzazione. Siamo nel lontano 1977 e Brian May, chitarrista e compositore della band, decise che era tempo di incidere un brano che potesse coinvolgere il pubblico nei loro concerti. Fino a quel momento, infatti, il coinvolgimento degli spettatori fisico e vocale era evento raro, in quanto le lunghe suite delle composizioni rock dell'epoca, spesso in pieno manierismo progressive, difficilmente si prestavano a questo scopo. Nell'idea di May, infatti, il pubblico avrebbe dovuto partecipare fisicamente ai live e non solo cantando qualche strofa o il ritornello. L'idea gli venne quando la band suonò allo Stafford's Bingley Hall, spero di averlo detto bene, a Birmingham. Come gli stesso raccontò alla rivista Billboard. A Bingley Hall il pubblico ha cantato ogni nostra canzone e quando siamo ritornati sul palco hanno continuato a cantare e poi hanno intonato l'inno del Liverpool, You'll Never Walk Alone. Era un periodo di transizione nel mondo del rock. Se andavi a vedere i Led Zeppelin e gli Who, vedevi il pubblico dimenarsi, ma non cantare. We Will Rock You era il nostro invito a farlo. Quando le luci del concerto si sono spente, ho pensato: non dovremmo combattere questo modo di fare della gente, dovremmo sostenerlo. Sono andato a dormire e mi sono svegliato con We Will Rock You nella testa. Quando sei in uno spettacolo non puoi muoverti facilmente in mezzo alla folla, ma puoi solo battere i piedi e cantare e battere le mani. Così May pensò di comporre un brano a cappella, facile, con una parte cantata quasi rap e un ritmo primordiale a fare da base, senza musica, ritmo da eseguire coi piedi e con le mani. E quel boom boom clap divenne il ritmo più famoso della storia del rock. Vabbè, più o meno. Possiamo farne un esempio in questo momento? Vai, vogliamo? Sì, facciamo. Senza crollare sotto. Sul palco. Niente, dicevamo. Ecco, allora. Non si può fare. È tutto finito. Bam. Tutto improvvisato, così. Francesco, veramente stai facendo. Siamo troppo bravi. Per le prove di registrazione dell'album in produzione, il sesto album in studio, News of the World, pubblicato il 7 ottobre 77, i Queen si ritrovarono in una chiesa, pensate voi, in una chiesa sconsacrata nel nord di Londra, che aveva un'ottima acustica. May trovò delle vecchie assi sotto una scalinata che utilizzò per creare i caratteristici colpi di cassa dei feed della canzone, i boom, che furono poi completati con del battimane finale, cioè il clap. Una volta assemblata la parte, sorse però il problema di registrarla come se fosse seguito da una folla. Infatti, fare una sovraincisione multipla dello stesso ritmo sembrava la cosa più ovvia, ma il problema è che una folla non batte mai piedi e mani in perfetta sincronia. In più ogni componente della folla si trova a una distanza diversa da un eventuale ascoltatore, pertanto il suono arriva all'orecchio con un ritardo sempre differente e segue il ritmo con un leggero ritardo o anticipo. Questo, scusami, wow, mi permetto di intervenire perché Brian May aveva assistito a tanti saggi qui con noi, no? Sì, okay, c'era quello, sì, sì. Anche lui ci ascolta. Noi avevamo delle età negative, non essendo ancora nati, poi quando siamo nati già al punto zero, vabbè. Ma la difficoltà rimane. Età negativa. Età negativa, senti, ho tirato fuori così. Stai entrando in un'età negativa. Entrando in un'età negativa. La seconda soluzione più logica era dunque quella di introdurre un delay tra una sovraincisione e l'altra. Oggi tutto questo si può fare facilmente via software, ma ai tempi bisognava arrangiarsi con macchine analogiche che permettessero di introdurre un certo sfasamento temporale. A complicare le cose però intervenne il fatto che certe frequenze ripetute a intervalli regolari di tempo, e si parla dell'ordine di millisecondi, tendono a generare le cosiddette armoniche, cioè frequenze multiple, doppie, triple e così via, della frequenza fondamentale. Ad esempio, una nota grave, quale quella generata da un piede che batte su un asse di legno, tanto per rimanere in tema, potrebbe essere centrata sui 50 Hz. Le prime armoniche si trovano a 100, 150, 200 Hz e così via, quindi con una frequenza di pari passo la metà, o la metà, insomma, o comunque una frazione. Ricordiamo che le armoniche, per chi non lo sapesse, sono quelle frequenze che consentono di generare il cosiddetto timbro di uno strumento. Quindi per cui il classico La a 440 Hz che si usa per l'intonazione e l'accordo tra i vari strumenti suona diverso se eseguito su un pianoforte o su un violino. Tale differenza è data dall'inviluppo delle armoniche che lo strumento genera, o se vogliamo dallo spettro armonico tipico dello strumento. Per tornare al May, quindi il problema di May dunque era quello di evitare il più possibile le numerose armoniche ed eventuali dissonanze che si sarebbero sovrapposte utilizzando ritardi di tempo che fossero multipli di altri. Ed è proprio qui che entrano in gioco i numeri primi. May disponeva fortunatamente di un solido background in studi di matematica e fisica, studi che abbandonò, ricordiamolo, per dedicarsi alla carriera musicale e che riprese infine nel 2007 per conseguire il dottorato in astrofisica con una tesi sulla polvere stellare. Ma bravo, ragazzi, ma che dolce, cioè, puoi mettere un applauso, una robetta, Gabri, così, ragazzi, cioè, suonava nei ritagli di tempo, suonava nei ritagli di tempo, ha fatto i Queen, esatto. La tesi si chiamava A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Francesco, veramente stai facendo, esatto. Scusate, c'è arrivato un vocale al volo, perché cioè, la tua trasmissione ha veramente, me lo merito. Allora, grazie a questo solito background scientifico, May pensò di utilizzare i ritardi che fossero primi tra loro, ossia privi di divisori comuni. Per esempio, 15 e 28 non hanno divisori comuni. Il primo è divisibile per 3 e per 5, mentre il secondo lo è per 2 e per 7, quindi non hanno divisori in comune. In questo modo venivano quindi evitate sovrapposizioni di armoniche. L'idea fu poi trasferita in sala di registrazione, il Wessex Studio di Londra, impegnato nello stesso momento, pensato un po' con la registrazione dell'album Nevermind the Bollocks Day. Sex Pistols, bravissimo. Ma che carino. Il risultato. Bastoni! Il risultato, che può essere ascoltato nella versione definitiva del brano, fu così convincente che ispirò, tra l'altro, una serie di prodotti commerciali che sfruttarono la stessa intuizione matematica di May. Tuttavia, non v'è traccia nella documentazione originale di tali prodotti commerciali che hanno sfruttato quest'idea della vera paternità dell'intuizione iniziale di May, che ne era consapevole, come ebbe proprio a dichiarare nel 2010 in un'intervista alla National Public Radio. Dice: ora, qualche tempo dopo, qualcuno ha progettato dispositivi in grado di fare questo, cioè il lavoro del delay, esatto. Ma questo era il modo che utilizzammo noi. Quando registrammo ogni traccia aggiungemmo un certo ritardo di lunghezza opportuna e nessuno di questi ritardi era armonicamente correlato con gli altri. Di conseguenza non c'è alcun effetto eco, tranne il suono dei boom boom clap che si diffonde nel fronte stereofonico e persino a una certa distanza dall'ascoltatore, in maniera tale che ti senti come se fossi in mezzo a una grande folla che pesta i piedi e batte le mani. L'idea di May ovviamente si tradusse dopo breve anche in applicazioni commerciali. Il primo prodotto che fu progettato, e qui il maestro sicuramente ne sa più di me, in maniera tale da includere la possibilità di creare i tardi con numeri primi per ottenere la cosiddetta risonanza non armonica, fu il Lexicon Prime M93. Francesco, ma veramente stai facendo? Scusate. E il nome stesso richiamava l'idea matematica dei numeri primi, Lexicon Prime. Rilasciato nel 1978, cioè poco dopo... rilasciato poco dopo la pubblicazione del brano We Will Rock You, è stata una vera e propria pietra miliare per i musicisti e gli studi di registrazione di tutto il mondo, preferito da grandi artisti come il Daniel Lanois, spero di averlo pronunciato bene, che lo utilizza ancora oggi, Brian Eno, David Byrne, Pat Metheny e Peter Gabriel. il primetime M93, le sue evoluzioni, l'MK2, M95, super primetime M97 divennero lo stato dell'arte delle unità di ritardo digitali. Ultima cosa, piccola curiosità, pensate che invece l'effetto opposto, cioè il flanging, in cui la scelta dei tempi di delay viene effettuata con intervalli temporali non coprimi tra loro, era stato utilizzato nel rock per creare particolari sonorità fin dal 1966. Attenzione! C'entra qualcuno? E secondo lo storico Mark Lewison, questa tecnica fu messa a punto, indovina da chi, Virgi? John. È proprio da lui. Con Tomorrow Never Knows, per caso. Da John Lennon, esattamente. Madonna, le so tutte! Che la impiegò in brani quali appunto Tomorrow Never Knows o Losing the Sky with Diamonds. Ma quella cosa che abbiamo scoperto è che ha appoggiato la giacca su un registratore della... sulla flangia. Potrebbe darsi. Spasando non il suono. Non so l'origine. No, era lui che cercava di dondolare quella storia. No, quella... Ah, ok, quella sì, è quella di de lui attaccato per i piedi, di cui abbiamo parlato in passato. No, questa qui era sempre l'invenzione del... del flanger, nato per caso sempre. Ma sempre parla con uno, canzone. Ma non so se era John. Comunque uno che ha appoggiato una cosa su un registratore di quelli a bobina che hanno le flange, e rallentando una delle due cose, facendo improvvisamente un effetto che tutti hanno detto male, però figo, potremmo usarlo. È sempre tutto cioè, calcolato. Ma hai rotto tutto il registratore, però usiamolo poi. Un po' distratto. Però dammi un po' di soldi tuoi. Però scusate, questa è entrata a gamba tesa perché Franci ha citato un sacco di macchine che in effetti io conosco solo per la marca, Lexicon, che sì, è la storia di... Ma così al centesimo del modello non l'avevo mai, anche perché ovviamente sono cosette che non si trovano più. Addirittura c'era un modello che... Da un po' di anni che non si trova. Quando inserivi, leggevo, dei millisecondi primi, praticamente si accendeva, cioè metteva in evidenza il numero del millisecondo. L'ha detto! Numero anche oggi. Stavamo aspettando tanto. Ti puoi distrarre un attimo. Tutti. Prendi il gol in contropiede. E niente, va bene. Tra gli altri hanno usufruito del flanging, ricordiamo anche Jimi Hendrix, Captain Beefheart e David Bowie. E vi lascio ovviamente, indovinate un po' con quale pezzo. David Bowie con i Death, Scavenger of Human Soul. No, non è no. Vero. Vi lascio ovviamente con i Queen e questa è We Will Rock You. Woo! Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Centocella Avengers, 11 marzo alle 5.42. Come passa il tempo quando ci si diverte, signor? Ma come si dice, chi ha tempo non perda tempo. Quindi, maestro, lanciamo la sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il mare. Potenziato gli Avengers, è una rubrica adotta che si chiama Nerdland. Come l'ha chiamato? Nerdland! Grazie a loro, Fred. Se c'è gli Avengers. Buonasera, piccoli nerd. Oggi parliamo di tempo che passa, che scorre, che fugge via, ma voglio invitarvi a fermarlo per un attimo, per parlare di una categoria di prodotti giapponesi che mi ha sempre affascinato moltissimo, che non ha un nome specifico, forse, ma fa categoria per me. Mi piace chiamarle le slow series. Sono delle serie giapponesi, anime e live action, che hanno la comune caratteristica di far rilassare lo spettatore per via del loro ritmo estremamente lento e della loro quasi totale mancanza di una grande trama. Sono le serie che parlano delle piccole cose, dei meravigliosi dettagli, che parlano a volte di nulla, in una maniera così adorabilmente curata da essere una piccola panacea per la vita dell'uomo moderno, abituato a ritmi frenetici, a mille impegni, a concludere tante cose nella stessa giornata. Il primo esempio è Aria The Animation, manga del 2001, anime del 2005 di 13 episodi. Anno terrestre 2301, sono ormai passati 150 anni da quando Marte è stato terraformato. Al pianeta è stato dato il nuovo nome di Acqua a causa dello scioglimento della quasi totalità dei ghiacci, cosa che gli ha anche portato il soprannome di Pianeta dell'Acqua, mentre alla Terra è stato dato il nuovo nome di Man Home. Akari Mizanushi è una giovane terrestre che si trasferisce su Acqua per imparare il mestiere di Undine, le gondoliere che fanno da guida turistica a Neo Venezia, la riproduzione dell'antica Venezia terrestre ormai completamente sommersa. La serie in sé non parla fondamentalmente di nulla. Gli episodi si dipanano seguendo le vicende delle Undine che passano il loro tempo ad accompagnare i turisti per le vie della città, illustrando le bellezze di una Venezia ricostruita, e si perdono nei dettagli delle strade, dei monumenti, nelle storie del vecchio mondo, nella bellezza di navigare in gondola su un fiume e godersi l'aria fresca e il calore del sole. Godibilissimo nonostante abbia qualche anno, vi consiglio di godervi gli episodi uno per uno. Simile nella semplicità, come sentite anche nel sottofondo, è Midnight Diner, Tokyo Stories, classe 2009, basata sul manga La taverna di mezzanotte di Yaro Abe. In una taverna izakaya situata nel quartiere di Shinjuku di Tokyo, aperta da mezzanotte alle 7 del mattino, uno chef da tutti chiamato soltanto Master e con una vistosa cicatrice sul viso, che è l'unica caratteristica che viene mostrata di questo personaggio, accoglie i suoi clienti che hanno terminato il lavoro, ma che ancora non vogliono tornare a casa. La taverna ha un menù piuttosto basilare, ma i clienti possono chiedere qualsiasi piatto che loro desiderino e Master lo cucinerà per loro, alla sola condizione di avere gli ingredienti necessari. Gli episodi portano ognuno il nome di un piatto e seguono la piccola vicenda di un diverso protagonista, il cui piatto è il preferito. A volte le storie migliori si trovano nei posti più bizzarri. Ogni episodio è una piccola perla che racconta la storia di una persona con una cura veramente deliziosa, gli amori, i dolori, le gioie, le invidie, i piccoli rimpianti che gli avventori sono disposti a raccontare in un posto dove si sentono a casa, confortati dal loro cibo preferito, condiviso sullo stesso bancone con amici vecchi e nuovi che trovano in una taverna dove in qualche modo il tempo è sospeso. E questo conforto passa allo spettatore, lavando via le ansie della giornata ormai giunta al termine, con un pizzico di serendipity, cioè il senso dell'occasione di fare scoperte per puro caso, o il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un'altra. Negli anni ho veramente centellinato gli episodi, andando persino contro la sempre naturale frenetica abitudine al binge watching. Non volevo perdermi tutta la bellezza di questa serie nella fretta. E ricordo ogni episodio con un sorriso. A fine di ognuno viene mostrata la ricetta del piatto che gli dà il nome, solitamente un piatto semplice, di cucina povera, di conforto, legato ai ricordi del protagonista, in un Giappone dai tempi lenti, dai mille rituali, specie nella preparazione del cibo. Lo show è tanto teso a coinvolgere lo spettatore emotivamente che spesso alla fine degli episodi egli viene esplicitamente salutato dai protagonisti. Simile, anche per la cura nel campo culinario, è una serie più recente, appena uscita su Netflix, di nome Makanai. Sumire e Chio lasciano le loro famiglie per trasferirsi a Gion, il quartiere delle geishe, dove vengono addestrate le maiko, ovvero le future geiko o geisha nel dialetto di Tokyo, di Kyoto, nel canto, nella musica e nella danza. Sumire, che ha sempre sognato di diventare una geiko, dimostra subito un immenso talento, mentre l'inseparabile amica Chiyo, meno motivata, lascia presto perplessa Loka-san, cioè la mamma delle ragazze, sulla propria attitudine. Ma ben presto anche lei trova il suo posto nella famiglia delle geiko in qualità di Makanai, la cuoca della casa. I 9 episodi di Makanai sono immersi in una appagante, tenue e ovattata serenità, quasi liquida, nei quali i conflitti e le sofferenze esistono, ma sono interiorizzati e assorbiti dalla calma, dal senso di accettazione e dalla pazienza dei personaggi. Non succede quasi nulla anche qui, nell'anno che viene descritto. Sumire si allena duramente, Chiyo supporta lei e le altre Maiko preparando con cura i pasti, in sintonia con il loro umore. Chiyo vanta un intuito, una sensibilità ultraterreni, riuscendo con discrezione a calmare gli animi di ciascuna con pietanze tradizionali, preparate con attenzione e amore. Ad un certo punto della storia, lei stessa ammette che le piace cucinare per loro, solo perché così possono tutti stare bene insieme, e descrive la sua vita in una maniera veramente deliziosa quando le viene chiesto se non si annoi a cucinare tutti i giorni. Racconta che ogni giorno va al mercato, sceglie con cura gli ingredienti, pensando a cosa cucinare a seconda di quello che succederà durante la giornata e dello stato di salute e d'animo delle ragazze, e che, seppur ogni giorno sembri simile, in realtà è completamente diverso da ogni altro, utilizzando un concetto giapponese racchiuso dalle parole Ichigo Ichie, cioè un momento, un incontro, che nella filosofia giapponese più vicina al buddismo e allo zen sottolinea l'importanza di ogni momento, dell'eterno presente in cui viviamo, in cui ogni incontro, ogni momento, seppur sembri ripetersi, è sempre differente e come tale va vissuto, come un'occasione unica nella vita, poiché non si ripeterà, o perlomeno mai nello stesso modo. Makanai descrive un mondo di donne, di soprannaturale femminilità, dolcezza, obbedienza e modestia, che sembrano creature di un altro mondo e senz'altro di un'altra epoca. Vivere nello yakata, infatti, è quasi come entrare in convento, si rinuncia alle cose del mondo, alle frivolezze, adempiendo con volontà da mattina a regole e rinunce. Le maiko devono vivere in comunità e fare tutto quello che gli viene detto. Non possono portare soldi con sé, avere un cellulare o ambire persino a un fidanzato, ma continuano questo percorso con gioia, inseguendo il sogno che hanno scelto per la vita. Con questo mi avvicino a chiudere la nostra rubrica Piccoli Nerd, sperando che i miei consigli vi abbiano fatto scoprire qualcosa di nuovo e bizzarro anche quest'oggi. Vi lascio con un pezzo tratto da Aria d'Animation, la canzone di Atena. Ascoltando Radio Forte, tanto forte al punto che è 100 celle Avengers. E dopo questa betta terapia che sì, ci ha rilassati di relax, tutti, veramente non c'ha il coraggio di fare un macello. Mi sembra che tutto adesso si possa fare, che abbiamo bello, il tempo veramente di fare tutto. Basta io volevo prenderla dire con rilassatezza, cosa. Prego. Mi ha fatto venire in mente Betta, ecco che tra l'altro stiamo perdendo tempo. Sta risalendo. No, mi è rimasto questo mood molto lento. Vabbè, facciamo sereno, anche serafico. Risalire Betta, è vero. Sì. Beh, ti mi hai fatto venire in mente un libro che peraltro ecco, è anche sul mio comodino, lo sto leggendo a momenti, sì, l'ho iniziato, ecco. Che mi è stato donato di tale Toshikazu Kawakuchi. L'ho detto bene, non lo so. Meglio di Phil Collins. Che brava. È autore. Sì, ah, meglio di Phil Collins. Che è autore, guarda caso, giapponese, appunto, di questa serie di libri. Questo, l'ultimo è Basta un caffè per essere felici. Poi ha scritto Ci vediamo per un caffè finché il caffè è caldo. Comunque, tutti questi libri che sono proprio rientrano nella categoria dei libri che donano serenità. Ah. Guarda caso sono di autori giapponesi, cioè non c'è solo lui. Ma la questo cultura, no. È veramente. Mi aveva colpito questa cosa. Sì, ma è una cosa un po' loro. Poi è strano perché diciamo che come società invece sembra che vadano molto di fretta, di corsa. E invece hanno una cura per queste cose. Sì, quindi che siano serie, libri. Quindi bravi. Praticamente Betta è l'unica che ha perseguito il tema del tempo quando uno e ha si tempo. Merita l'applauso. No, non è vero, pure io. Pure ah, io. È vero. No, davvero. Pure io. Comunque, ma se volete lì poi ci di lei è tempo. È vero, cioè, è vero, è vero. È assolutamente tempo. Chiedo scusa, Franci, dalle retrovie mi corregge giustamente. Tanto nessuno saprà che l'ho ammischiata negli ultimi 5 minuti. Sì, esatto. Tutti abbiamo parlato del tempo. Beh, infatti quest'oggi anch'io parlo del tempo perché dai, in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers abbiamo tutto quel bagaglio di cui si era parlato, bagaglio diciamo audio culturale, e insomma abbiamo le registrazioni del saggio, abbiamo quindi una rubrica 100 Celle Marcord Deluxe. 100 Celle Marcord, ricordiamo, la rubrica che parla del saggio che non ricordavi di aver fatto. Che si incrocia al crossover con la sigla dello SDOS Elementos, detti anche Gemma e Mirko. Quindi io lancio doppia sigla, ce la deve stare. Ah, sì. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa, un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa. Ti ricordi. Un'estate fa, un'estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa. E saggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa. Ricordati di me. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Che promette di essere l'avvenimento più seguito della storia del. Ed è proprio qui che cominciate a. Sono questi due elementi che si sono confrontati. Siete in competizione l'uno con l'altro. Non in competizione, no. Sentite il profumo di Street Fighter. Gem e le Holograms sul palco, applauso. Ma ci sono stati così tanti brocardi che non è un problema. Ma un brocardo l'hanno fatto anche i B.I.B. sul palco. Questa è la cerchia d'entrata del saggio lungo metà anno. Sempre, sempre un'emozione il saggio. Competizione violenta. No, per no, no, no, no. Sei qui, eh? E invece sì. Taglia, taglia. Mi sono scordata le fettine panate. Ma tutto, soprattutto non dimentichiamo le fettine panate, questo è importante. E è tutto diviso perfettamente equamente, insomma, perché siamo due B.I.V., due Gem e due neutrali nella redazione. Nella redazione, wow. Quindi non ci stanno. Eh sì, perché troppe. Gli elementi della redazione si confondono. Siamo come il CDA della RAI, equilibrato, lottizzato in parti uguali. Cioè, la lotta è pari, non impari. Non c'è problema, di mamma, però, nessun cioè. Problema. Siamo sempre i soliti stronzi che facciamo le cose, ecco. In sostanza questo. Ecco. Nasci addosso l'avvocato del diavolo. Non fare così. Faziosa Gabri Grubi. Comunque, in questo saggio avevamo tante aspettative, abbiamo già parlato del potenziale, diciamo, fallimento che c'era dietro ad alcuni pericoli. Il pericolo del basso distorto, il pericolo di Biascicone. Questo studente che si è accollato all'ultimo... nel nostro mamma carro mamma della felicità che ma porta al saggio e che ha accompagnato quindi anche lui diciamo il saggio, ma vogliamo sentire com'è andata, vogliamo capire sì. Come si è comportato no. Vabbè, cioè, a parte la voce disonante d'accordo, di Alexa, mettetevi d'accordo. Io avevo, cioè, anche un po' un contributo che non so, cioè, non riuscirà mai, cioè, come Franci, che l'autore lo aveva concepito. E, no, aspetta, non puoi fare nulla perché purtroppo solo io posso fare questa cosa, cioè mettere il silenzio per l'imbarazzo. E quindi questa era Vinci. Prima impararla. Amore sai, un po' di riverbero per favore, come succede? Vai. Poi dimenticarla, esatto. Amore sai, era la gag. Come succede? Poi arriva il saggio, quello dei sogni, quello che vuoi. Biascicone l'arrangia per noi. Non fare così. Biascicone l'arrangia per noi. Ti butti sempre giù. Biascicone l'arrangia per noi. Biascicone l'arreda per noi. Il saggio, vi faccio l'applauso. Grande. Bravo. Live. Live l'applauso. Tantissima roba. Questo perché non c'è stato il tempo, sono rimasto in tema di confezionarne una veramente che fosse sigla di bellissima. Questo momento di Biascicone, che comunque ci ha conquistati con il suo savoir-faire durante il saggio. Si è presentato e a un certo punto non gli bastava di accompagnare al piano male gli allievi solisti, come ci eravamo detti, e a un certo punto, per una circostanza del destino che si è determinata nel giorno prima, vi ricordate, eravamo in onda, poi dopo, subito dopo, mi vengono a dire, sì, mi vengono a dire che Biascicone deve per forza cantare un pezzo, perché sennò se la prende a male, perché gli piace tanto quel pezzo lì, sta in fissa con il musical, ha fatto un pezzo un po' isterico, pur di cantarla, pur di cantarla. Vabbè, diciamolo che Sofì purtroppo ha avuto chi doveva cantare questo pezzo, la cantante. Vabbè, poi spoilerato ha avuto quella che è la realtà. Salutiamo Sofì che ci ascolta, mi sa voce. Che ci ascolta, sì, oggi davvero. Grande Sofì, quindi salutiamo Sofì. Ci vede, ci sente, ci vede. Le chiediamo anche un po' di pazienza, perché ecco. Si è sentita tirata in causa, ce l'ha appena scritto. Vabbè, comunque La salutiamo. Ciao, Sofì. E cosa succede? Che a un certo punto sbrocca, Biascicone si alza dal piano e insieme a Virginia, che invece il distorsore l'ha tolto. Sì, ma ho suonato male comunque. Sentiamo non è... com'è andata. understanding. Sympathy is just about me. No more pursuit, the region of the Maybelline, the vision. Mr. Crystal Revelation. And the mind to lead a race of Aquarius. Radio Forte, 100 Celle Avengers, se n'è andata la prima ora di divertimento e trauma, è trauma comunque nel riascolto di Biascicone, ma la scuola di Hogwarts non dice di no bravi a tutti, nessuno e tutti. Quindi ne accogliamo anche... Molto bella. Biascicone che si lamenta perché non si lamenta nessuno. Infatti non fare così, te lo dice, ti anche butti sempre giù perché era molto a Hogwarts bella. Accogliamo io tutti, io non arrivo ai pulsanti però te lo dico così. Ti butti sempre giù. Comunque salutiamo Sofì, la aspettiamo per il saggio di d'estate, ci rifaremo Sofina, ci rifaremo. Comunque questa che abbiamo sentito che era appunto Aquarius, sì. E io ero tra il pubblico, sì, no, è stata veramente seguita magistralmente, cioè a me è piaciuta molto, poiché non suonavo quest'anno me la sono veramente goduta e bravi bravi bravi siete stati, veramente bravi, ecco. Grazie. E chi se l'è perso se lo può sentire in podcast tutto intero. No, non è vero, non abbiamo ancora, non è stato pubblicato, però c'era questa mezza intenzione. Sarebbe un come dire un inedito il fatto di avere tutto il saggione lungolone a disposizione. Non c'erano le direttone che avevamo fatto? C'erano le direttone, sì, quelle diciamo special, quel saggio che fu diciamo quasi radiofonico. Per motivi radiofonici era stato registrato e pubblicato come puntata. Vabbè, però quello era motivi di Covid. Diciamo, noi perderemmo in un colpo solo tutta la nostra miniera di selection che invece scintilliniamo durante è tutto vero, l'anno. Dobbiamo pensarci. Ah, non c'è solo Biascicone, ci sono tanti altri che si sono esibiti in questo breve, devo dire questa volta breve saggio di metà io anno. Il giorno dopo sono andata pure al lavoro, cioè gente che è andata anche al lavoro il giorno addirittura dopo. Hai capito quando sono brevi è così, ma quello del luglio mi sono beccato raffreddore, sei sicura? È falsa la pena. Tutto ciò comunque si sposa o comunque si è sposato con una coincidenza diciamo notevole, perché veramente non me l'aspettavo, che diciamo quella settimana sono stato mandato a fare come fonico, a lavorare in un altro saggio. Oh. Traditore. Cosa? Come ti permetti? Quello che è successo è proprio che qualcun altro evidentemente ha adottato questa istituzione del saggio di metà anno. A me sembrava che eravamo dei minchioni, invece evidentemente tira. Pensavi che fossimo gli unici a fare trend, un saggio, del saggio di metà anno. Manco a di quello di Natale che lo fanno, infatti, no? Solo di metà anno. Poi noi lo facevamo per centrare il carnevale, quest'anno non l'abbiamo centrato, lo vogliamo dire un po', cioè dovremmo poi fare un angolino se volete, no? Commentare il vestiario di tutti presenti, gli ospiti, le ospitate durante il saggio. La comunque avevamo detto carnevale, che dovevamo mascherarci, ma molti non l'hanno fatto, molti non sapevano perché molto il carnevale libero era passato, oggettivamente passato, quindi siccome ci teniamo proprio alla, così dire, alle istituzioni, ai giorni giusti, quindi nessuno se la sentiva, ma qualcuno si è mascherato. Vabbè, comunque mi sono perso e volevo dire che quindi tutto ciò ha generato ovviamente un trauma fonico. Oh. E che questo in questa splendida cornice ha un suo, una sua rubrica, un suo spazio che ha anche una sigla. Sigla! Sei fregato. Oh. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Questa è l'atmosfera. Anche se l'ho presa un po' larga come diciamo inizio di robe. Così tragica? vado un po' avanti, cioè, per fare, perché, dal regista, ecco, siamo qui, siamo qui, siamo qui. Attenzione. Sto cercando, come al solito, di portarvi in un posto dove siete già stati ma non lo ricordate, oppure siete giovani e non ci siete andati. Vi ricordate quando ce la posso fare? Diciamo che questo è quello che mi ha evocato andare a lavorare allo Yamaha School of Music, saggio di metà anno. Cioè, dovete capire, la Yamaha, che mette su scuole in tutto il mondo, lo fa per vendere strumenti, soprattutto, che fornisce ai suoi allievi, li costringe a comprarli e glieli propone. Cioè, sono praticamente le macchine, quindi quello che vi sto cercando di far visualizzare è Rocky che si prepara sollevando pezzi di legno e carretti e cose, mentre Ivan Drago, cioè la macchina, cioè tutte quelle macchine, non avete mai visto super niente, insomma, Rocky 4, no. La preparazione di Rocky 4, no, perché noi siamo l'umanità, loro sono le macchine, bravo, oh, grande, che mi stai seguendo, maestra Viola. Io ti seguo, maestra. In questo cosa voglio dire? Che oltre ad essere ovviamente una scuola attrezzata e che, come insomma, nel calice di fuoco si riunisce con la scuola di Hogwarts, di Beauxbatons, di cose dalla Francia, dall'Inghilterra, tutti della Yamaha School, un gruppo solo, un pezzo solo, ma 15 esibizioni incredibili. Sono bravi. Che vorresti dire, scusa? No, voglio dire che tutto questo mi ha generato un certo termine di paragone, un certo, no? Ah, sì, come siamo noi? Come sono loro? Chi siamo proprio noi? Come chi i sono? Non è una macchina. Niente, voi Rocky non avete visto cosa suoniamo. Comunque, hanno adottato il metaverso. Non è un esempio spendibile a Radio Forte, lo posso capire, Rocky 4, però. Io ho dei contributi come numeri che possono aiutare nella comprensione della differenza che c'è tra noi e loro. Allora, ad esempio, noi partiamo così a bomba, loro già danno questo. Scusate, un attimo di... È il momento, ok? Ma è ok. Cioè, questo è il reale intro di Walk In che abbiamo messo nell'entrata del saggio di musica di Yamaha School of Music. Non è un po' vintage sta cosa? Dici? Appena proprio. Io l'ho trovata molto aggiornata, molto X Factor. No. Ce la possiamo rubare, la prossima volta siamo noi. No, vabbè, è abbastanza di Vazzanicchi. E questa è la conduzione. La conduzione. Chiedo scusa. Benvenuti. Grazie. Benvenuti a Milano. Benvenuti a tutti. Milano, eravamo a Milano, non ho detto, scusate. Dear audience, welcome in Milano. Cioè, tutto in bilingua, tutto in bilingua. Importante concerto. Però ha detto Milano in italiano, parlando in inglese, cioè, è un evento molto burina. Importante che the Highlight Concert, concert insieme, ovviamente. Dovete capire che fonicamente parlando io sono stato dedicato molto più alle prove tecniche di questa presentazione così cristallina che non ai check dei poveri allievi di questa scuola lì, che comunque erano anche molto giovani, eccetera eccetera. E soprattutto io ero lì con i soliti buoni propositi del fonico che vorrebbe fare il fonico. Invece i tempi garantiti dalla Yamaha School of Music sono... Avete fatto? Siamo pronti? No. Siamo pronti? Non avevo il campione di Shrek, però fondamentalmente è quello lì. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Tutto per una, diciamo... un palco di strumenti molto vasto rispetto al nostro, sempre sto termine di paragone, però insomma, fondamentalmente, se per noi ho poco tempo ogni volta noi tecnici di settare, acchittare, lì abbiamo avuto due giorni di prove che comunque riguardavano soprattutto ognuno di loro, di questi questo qui, questo è, ognuno di loro la vera star liberamente. Ma lui chi era? Lui parla degli studenti, di come, il signor Yamaha in persona, anche dei sentimenti degli studenti, ho sentito. Credo sia giapponese il signor Yamaha. Così noi siamo questo. Noi siamo l'umanità. Ma sì. Benvenuti. La maestra Serena Locurzio che tiene banco da anni e anni. Un applauso per favore alla maestra Serena Locurzio. Umanità e Toli, noi siamo un'altra scuola, a noi soprattutto nessuno ci compra gli strumenti o ce li sponsorizza, perché poi la Yamaha School of Music è una setta satanica, però nel senso che poi costerà quello che costa suonarci. però poi appunto diventi schiavo della Yamaha. La Yamaha sponsor di Kiss Me Leash e B.I., ricordiamolo anche. C'è proprio tutta una filosofia di no, ragazzi, fermi tutti. Il nostro sponsor è il signor Tomman, a cui abbiamo lasciato milioni. Eccola. Ma facciamo pubblicità sempre a chi non ne ha per niente bisogno. Io vi faccio sentire che comunque loro non sono la macchina. Invece la Yamaha sì. Questi erano i disperati che facevano la fine del saggio, diciamo, li tengo come sottofondo, erano quelli di chiusura che mi hanno detto metti, cioè, io sento che qualcuno bassi, ha lasciato il distorsore. Tre chitarre ovviamente sponsorizzate dalla Yamaha, con tre amplificatori Line 6 comprati da Yamaha, Catalyst, tutto nuovo di pacca, molta invidia per noi della scuola di musica. Comunque e... suonano i B.I. Sì, esatto, hanno fatto tipo Ken, a me sembra Kenshiro, welcome to una specie di... Sono proprio datati. Questi sono i più rock che hanno suonato, tutti gli altri erano un po' più, diciamo, sul classicheggiante. Io ovviamente ho privilegiato questi giovani, che poi non erano, erano anche l'unico gruppo che un po' ci rispecchiava a livello di misto di età, perché gli altri erano tutti pischelli, questi erano gli unici che erano misto, pischelli e adulti. Senti che siamo vecchi. No, ecco, non devi fare questi discorsi, anche se io te la lancio un po' la possibilità. Io te scateno mano subito. Esatto, proprio. Non dobbiamo scatenare il nostro utente numero uno, che su questi argomenti poi ci sforma. Comunque, che cosa succede? Che a questo punto noi rispondiamo come scuola col mondo che è anche, diciamo, accosta la musica insieme, è quello dei solisti, giusto? Vai, ricordiamo, vai. E quindi a questo punto io credo di aver interpretato bene la scaletta, certo. Senza dire al punto 4, no? Cioè già mi dico, no, quanto era è? Anche 7, perché è il punto 7, 7 vabbè, per dire appunto che io non vado per punti, ma c'è tutto un flusso di memoria e di cose che mi fa anche trovare la sigla. Non è vero. Aspetta, la sigla allora che... dobbiamo parlare dobbiamo... dei solisti. Grida. Ho detto qualcuno che noi come scuola del... di musica grida rispondiamo... Yamaha come Adriana. Yamaha! Rispondiamo col mondo dei solisti, in questo caso non della musica insieme, e questa è la sigla. Oh, sono molto contento di entrare in questa ultima parentesi riguardante il saggio, chissà, magari ne riusciamo a ascoltare anche un altro, dai. Perché così chiudiamo anche la parabola di Biascicone per questa puntata della 46 di Centocelle Avengers, perché chi poteva accompagnare il solista che andiamo ad ascoltare, anche detto Enrico, nell'esecuzione di Ultima Luna, anzi L'ultima Luna di Lucio Barradalla? Poteva solo essere lui. Poteva essere solo lui. Questo è il pezzo che ha aperto il saggio. Ma sì. La tastiera, il piano era una Yamaha. Lo so Yamaha. Che ha rischiato, anche, io... ha rischiato anche di esserlo. No, quella che abbiamo usato ufficialmente non lo era, quindi non eravamo sponsorizzati. Ah. Comunque, brava, perché quello che volevo dire prima è: troviamo una marca Scrout, che la Yamaha, non possiamo puntare alla Yamaha, però. Magari troviamo una marca, un tipo, abbiamo un amico che fa pick up, Celentano pick up, potremmo fare il saggio Celentano School of Music, sì. Spingiamo tutti i pick up di, insomma, una, vabbè, non io si ho fa, un basso fa. Framer. Dovevate dire no, no, questo ah, no, no, perché noi siamo fa. Una scuola no, che no. Non corretta. Salutiamo mamma mia, oh. Celentano ci no, interessa, no, pensavo non è che era un amico e dovevamo aiutarlo. È anche un amico, ha fatto un po' il doppio, sì, sì. Il doppio gioco, però vabbè. In realtà noi siamo, no, siamo altro, no, no, allora, non abbiamo bisogno di sponsor. Comprate pick up Celentano pick up, ma noi non useremo pick up Celentano pick up, che noi non pubblicizziamo i pick up. Ma non è Celentano, né altro. E salutiamo Angie comunque, a questo punto che... ci ascolta sempre, sempre. Ciao, ascoltiamo L'ultima luna. Grandi muscoli e poca carne,

radio forte 100 celle Avengers è con una certa emozione che no, quando si accoglie una nuova rubrica al nostro tavolo che è sempre un posto a tavolo, cioè, di farfalle no, nello scodinzoliamo, stomaco, cioè, arriva poi con tutto, no? Aggiungi io, ma io cioè, non sto nella pelle e cedo la linea a Virgi. Beh, stiamo per introdurre una rubrica che io avrei voluto fare dal giorno 1, ma mi sono vergognata dal giorno 1 perché con la musica c'entra. Ce la faremo certo entrare. Però ce la facciamo entrare perché io riesco a collegare le cose sempre come mi dicono qui. E quindi questa volta è basta. No, non te la puoi prendere con i device, Virgi. Ti stavano appoggiando. Grazie, ragazzi, scusate. E quindi niente, io sto per introdurre questa nuova rubrica e poi parleremo appunto dell'argomento. Voglio soltanto anticipare che la sigla purtroppo è la più scurrile di tutta la trasmissione. Ci piace. Io sono felice di questa bella noi accettiamo tutto. Sì, è andata così, insomma. Quindi se volete io posso provare a mandare la... Vai. Aspetta, il titolo della rubrica non ci hai detto. Ah, davvero, lo volevo dire dopo. Allora, il titolo della rubrica, hai ragione, però no. Non c'è sigla senza bene titolo, ecco. La rubrica è Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì. Sigla! Professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park. Vengono e basta Virgi, ma vedi dannartene affa. Mi sono commossa solo Virgi, te lo meriti tutto Virgi. Grandissima la sigla. Scusa, mi stavo chiedendo, ma quel flauto era un flauto Yamaha? È vero, sembra il mio flauto delle medie. Mi ha ricordato il mio collega clarinettista che quando gli ho fatto sentire come suona il flauto mi ha fatto: ma che sta a spegnere le candeline? Soffia bene. Vabbè, questo è bullismo, però ricordiamolo, nessuno di noi appoggia il bullismo. Ma la tocca pianissimo. La tocca pianissimo. Allora, di che stiamo per parlare? L'argomento di questa rubrica sono, ebbene sì, non solo i dinosauri, ma soprattutto i dinosauri, ma la paleontologia in generale, quindi lo studio dei fossili. Perché io parlo di questa cosa? Vecchie. Non ho assolutamente nessuna competenza per parlarne, ho soltanto tantissima passione, nata, come potete sentire nel sottofondo, dal film Jurassic Park. Perché non so se si era capito in queste puntate, no. Queste 46 puntate, che un pochino mi piace come film. Potevi presentare le finte credenziali comunque. Sono paleontologa. Cioè, all'ultimo allora, anno, innanzitutto la verità. Devo dare 3 esami e sono paleontologo. Mamma cosa mia, certo. Magari, guarda, lascia perdere. È proprio un sogno doloroso. Io sto continuando a parlare lontano dal microfono, scusatemi. Ti butti sempre giù. È vero. Sono passati 30 anni da Jurassic Park e io finalmente riesco a parlarne un pochino in radio. Sono assolutamente eccitata e orgogliosa e commossa. Lo siamo tutti. Mamma mia, grazie del supporto. Soprattutto ricordatevelo, siete tutti complici. Allora, il titolo di questa rubrica innanzitutto: Quando si svegliò il dinosauro era ancora lì. Questo titolo è, in effetti, l'opera letteraria, il racconto letterario più breve dell'intera letteratura. Ed è dello scrittore guatemalteco Augusto Monterroso. Che magari un giorno Viola se ne vuole parlare, la maestra Viola se ne vorrà parlare, appunto, ci sarà modo. Io non certo mi addentro in questo, ho ancora meno competenze, ma mamma mia. E quindi mi sembrava giusto come titolo appunto di questa rubrica, che appunto parla di dinosauri. Ma iniziamo a parlarne. Allora, oggi parliamo, è già tutto molto difficile, del Masiacasauro. Il Masiacasauro è un dinosauro teropode del Cretaceo, rinvenuto nel Madagascar. Innanzitutto, Teropode. Se io dico teropode, voi sapete di che cosa sto parlando? C'è 10 dita. Piedi. C'è un tera di piedi. C'è un tera di piedi. Dai, dai, dai, rispondete, rispondete, dita, dai. 10 dita. Tre piedi. No. No, non lo so, l'unico dinosauro che conosco è Denver. No. Denver era un dinosauro teropode, perché ecco, il dinosauro teropode c'ha le dita a tre, le dita a tre. Quello tipo il T-Rex. Il T-Rex. Tipo piedino. Il dinosauro teropode è un dinosauro che va bipede. Ah, cammina su due zampe. Esattamente. Quindi inizio subito con una piccola interrogazione per capire se avete già intuito di che cosa stiamo parlando. Io vi chiedo, vi dirò il nome di un dinosauro e voi mi direte... A parlare dietro, ah, state a chiacchierare. No, io stavo imitando il T-Rex. Io volevo spiegare, però. Che oggi c'ha le braccine corte. Scusa, purtroppo, no. La prima ora si è presa Franci per spiegare. I ragazzi sono i requieti. Veramente. Quindi. E allora, interrogazione: mi dovrete dire se al nome del dinosauro che io annuncerò, se sia un teropode o un non teropode. Poi passeremo agli altri tipi di dinosauri nelle prossime puntate. Ce l'ho. Iniziamo, Triceratopo. No. Non teropode. Perfetto. Come si dice teropode? Non teropode. T-Rex. Teropode. Sì. 42. Perfetto. Brachiosauro. Non teropode. No. Bene. Velociraptor. Teropode. Bene. C'è la domanda a trabocchetto. Stegosauro. Non teropode. No. Perfetto. Fenicottero. Non è un dinosauro. Non è un dinosauro. Toppa per tutti. Perché cala. Di che cosa stiamo parlando? Dei dinosauri. E i dinosauri non sono estinti nella realtà 66 e non 65 milioni di anni fa. Hanno rifatto i calcoli, se sono persi un milioncino d'anni. 66 milioni di anni fa, ma sono rimasti. E infatti i dinosauri teropodi rimasti e non estinti sono gli uccelli. Ma va, cioè il mi stai a dire che il fenicottero è un dinosauro? Esattamente, è un dinosauro teropode. È teropode. Oddio, ragazzi, domanda a trabocchetto. Che era teropode. C'erano troppe voci discordanti. Già mi piace un sacco questa rubrica. Okay. Aspetta, ma quindi cosa definisce un dinosauro? Ah, ottima domanda. Come faccio a sapere se sono un dinosauro? Quando le zampe del dinosauro sono esattamente sotto il bacino. Quindi praticamente gli uccelli, i teropodi e anche i sauropodi, cioè quelli col collo lungo, poi ce ne sono altri milioni di tipi di... No, non è vero, non milioni di tipi, altri tipi di dinosauri, hanno tutti quanti le gambe e le zampe sotto il bacino, al di là delle zampe anteriori, parliamo delle zampe appunto posteriori che sono sotto il bacino, sono poste sotto il bacino, poi magari si sono alzati e sono diventati bipedi. Ma quelle rimangono sempre lì, non sono larghe. Immaginate i coccodrilli, che sono arcosauri. I coccodrilli hanno le zampe laterali rispetto al corpo e camminano in un altro modo. Dovreste vedere. Sarà anche la spiegazione. Non so se avete sentito nell'audio. Se l'avete sentito, dopo We Will Rock You. Esatto. Questo palco crollerà oggi. Quindi, se voi vi state chiedendo appunto che cosa definisce un dinosauro, il dinosauro è un rettile con le zampe poste sotto il bacino. Infatti, pterosauro, pterodattilo, non sono dinosauri. Attenzione, sono rettili volanti. E mosasauro, ittiosauro, non sono dinosauri, sono rettili marini. Ma quindi non ti appassionano questo, vorrei capire. Io ho detto paleontologia e non solo dinosauri. Tuo interesse. No. Comunque, no. Quelli che stai nominando ce l'ho tutti bene in mente, perché quest'anno faccio la terza elementare. Mi sento molto tornata. E quindi li sto vedendo tutti, capito? Grande viola, meno male. Allora, vabbè, sono finite le domande, io so carica. Neanche il mammut era un dinosauro. Come no? No. Come no? Ma no, è mammifero. Il mammut è un elefante. Vero. È un proto-elefante. Grandi scoperte, solo qui a... Sapevatelo. 100 Cell Avengers. No, per me tutti gli animali antichi sono dinosauri, praticamente. Vabbè, in realtà ci sono anche ora i dinosauri. Metastasiauro, di cui stavi parlando all'inizio, no? Infatti, insomma, il masiacasauro. Allora, parliamo del masiacasauro, vi descriverò un pochino com'è fatto. È stato descritto per la prima volta nel 2001. Presentava una struttura molto snella ed era lungo circa 2 metri. Presentava una bocca e una testa allungata, con una bocca munita di denti affilati e una mandibola molto peculiare, perché scendeva quasi ad angolo retto. Quale sia la funzione di questa struttura è molto difficile da, ovviamente da poter capire oggi, perché non abbiamo un teropode e un masiacasauro vivente che ci spiega come la usava. Ma possiamo immaginare che se tacciasse il fango alla ricerca di pesci, di animali, insomma, nascosti sotto il fango, proprio come facevano appunto i fenicotteri, o come fanno i fenicotteri e altri uccelli moderni, e quindi tutto torna. Diciamo che per rapportarci ai comportamenti dei dinosauri, se non si hanno tantissime nozioni, possiamo rapportarci al comportamento degli uccelli, che sono i parenti non solo più prossimi, insomma, che sono il gruppo rimasto in vita oggi dei dinosauri. Ma perché ho scelto proprio questo dinosauro? Perché noi siamo una trasmissione che parla di musica e io mi sentivo molto in colpa a portare spudoratamente una rubrica che non c'entrava niente. Ti butti sempre giù. Lo so, però io a queste cose ci tengo particolarmente e quindi diciamo che sono un po' uscita dal discorso. A me mi piacciono i dinosauri, uffa, voglio fare tutte le cose io, fatemi parlare di Jurassic Park e di tutto quello che c'entra con Jurassic Park. Sono uscita da questo e sono ritornata sulla strada della musica. E quindi, curiosità, il nome completo della specie è Masiacasaurus Knopfleri. Lo so, me la so cercata. E prende il nome proprio da Mark Knopfler, il frontman dei Dire Straits. Oh mio Dio, attenzione. In quanto il gruppo ispirò i componenti della spedizione tanto da dedicare a questo dinosauro, a questo chitarrista, oh, la scoperta di questo dinosauro. È troppo contenta oggi che fa. Mamma mia! Il dinosauro e suona in finger picking pure lui. Sì, perché comunque non era tipo T-Rex, cioè le stampe un po' lunghe. Sempre lo può suonare. No, perché il T-Rex è un teropode, ma mettigli in mano una chitarra? Al massimo un ukulele. Vabbè, esatto. I power chord vengono bene con te. Infatti sì. Ce la faceva a suonare basso? Beh, no, penso di no. Però c'aveva due dita, sì, effettivamente si poteva fare. E vabbè, io andrei in conclusione perché mi sa che mi sono allungata pure abbastanza a parlare di cose che c'entrano zero con la musica. E quindi per concludere io andrei ad ascoltare la cover di Money for Nothing dei Dire Straits nella versione del gruppo alternative rock inglese Dinosaur Pile Up. Buon ascolto. Sono nella versione del dinosauro, tipo. Quasi. We'll be right back. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Radio Forte, Centocelle Avengers, alle 18.37 continuiamo con la cultura. Mi sembriamo diventati una scuola di scuola, no, scuola di musica, ma scuola di scuola. E quindi passando dai dinosauri alla poesia, posso dire questa parola così azzardata, passo la linea alla maestra professoressa Viola. Buonasera a tutti, e io partirei subito con la sigla prima di tutto. Lasciatemi leggere. Vorrei sentire questa poesia. E non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. E oggi proprio quindi Music and Poetry, come diceva Gabri, mi anticipava, perché oggi faremo proprio un, diciamo, un collegamento tra un poeta e un cantautore, e tutti e due molto famosi. E, il poeta è Ungaretti e il cantautore è Lucio Battisti. Allora, diciamo che di solito associamo la figura di Ungaretti alla realtà della guerra, per via, diciamo, delle sue innumerevoli poesie che appunto ha riservato per questa tematica, in quanto ha vissuto, diciamo, visse appieno l'epoca della prima, cioè della prima guerra mondiale, appunto. E però, diciamo, oggi invece voglio condividere con voi un'altra poesia, che si tratta, diciamo, di versi che attraversano una tematica del tutto differente, che è quella dell'amore e dei sentimenti. E la poesia si intitola Dove la luce. Un attimo, il sottofondo deve essere adeguato come nel migliori. Come all'odola ondosa, nel vento lieto sui giovani prati, le braccia ti sanno leggera. Vieni, ci scorderemo di qua giù, e del male e del cielo, e del mio sangue rapido alla guerra, di passi d'ombre e memori entro rossori di mattine nuove, dove non muove foglia più la luce, sogni e crucci passati ad altre rive, dove è posata sera, vieni, ti porterò alle colline d'oro. L'ora costante, liberi d'età, nel suo perduto nimbo sarà nostro lenzuolo. Questa. Ma quanto fa? Allora, diciamo che per rifarmi un po' in zona Cesarini del tema anche della puntata, che era il tempo. I dinosauri. I dinosauri. Ah, no, scusa. Vabbè, anche quelli nel tempo sono stati. Un tempo ci furono. Dove la luce è ambientata in un luogo e in un tempo che sembrano trascendere la realtà, in uno spazio in cui dapprima tutto si muove come accarezzato da una brezza leggera, e questa è l'immagine che traspare dalla prima strofa, pervasa di un ondeggiante, oddio scusate ragazzi, oggi proprio... ho un problema tecnico. Vai maestra. Ah, si è spento tutto. Perché la tecnologia. E quindi è questa l'immagine appunto che traspare dalla prima strofa pervasa di un ondeggiare leggero ed etereo, e in cui poi tutto il movimento cessa all'improvviso, come se anche il tempo si fosse fermato del tutto. È il caso della seconda strofa, che ci fa sprofondare in una quieta immobilità. L'amore che Giuseppe Ungaretti appunto canta in questa poesia è un amore incondizionato, un sentimento talmente forte da trascendere il legame terreno e tutte le cose ad esso legato. Ci scorderemo di qua giù, e del male, del cielo, e del mio sangue rapido alla guerra, di passi d'ombre, memori, entro rossori di mattine nuove. Il poeta invita la donna amata a seguire una dimensione nuova, dove non vi sono altro che luce, quiete e serenità. Uno splendido componimento che costituisce un autentico inno all'amore sopra ogni cosa. Ma perché appunto ci vogliamo collegare, cioè mi voglio collegare diciamo, alla canzone di Lucio Battisti. Diciamo che il tono e lo stile della romantica Dove è luce di Giuseppe Ungaretti potrebbero appunto essere collegati alla celebre canzone della musica italiana La collina di ciliegi, scritta da Mogol e interpretata da Lucio Battisti nel 1973. Il poeta ermetico fa riferimento alle colline d'oro, mentre Battisti promette che il sole è proprio dietro la collina. Diciamo che nella poesia ungarettiana, proprio come nella canzone, i due amanti sembrano liberarsi oltre i limiti e confini di un mondo che non sentono appartenere loro e approdare infine a una dimensione superiore, più in alto e più in là, come figli dell'immensità. Nella canzone di Battisti troviamo la stessa netta contrapposizione tra quaggiù, la terra dove vive un residuo di inferno, e lassù, presagio di eternità. Il cantante inoltre fa un analogo riferimento al volo, planando sopra boschi e braccia tese, e alla promessa di essere senza età. L'annullamento della canzone di Battisti però non avviene nella luce, ma nel sorriso, analogo presagio dell'essenza divina. E una breve parte della canzone: potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi vedere la mattina e il giorno, e dando un calcio ad un sasso, residuo di inferno, e farlo rotolar giù, giù, giù, e noi ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Ma come fa? Grazie amici per questa opportunità, e adesso concludo la rubrica e con l'ascolto, diciamo, di questa bellissima canzone di, appunto, di Battisti, interpretata da Battisti, La collina dei ciliegi. Prego, maestro. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco, ben aggiustato, forato, e lui giù, giù, giù, e noi ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora figli dell'immensità. Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi vedere la mattina. Il giorno. e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù, giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. Planando sopra boschi di braccia tese. Radio Forte 100 Celle Avengers, dopo una puntata che, lo ripeto, ci rende veramente una scuola, dopo matematica e musica, storia dei dinosauri e musica, poesia e musica, noi ci abbiamo avuto storia dell'arte, la musica, serie, il momento educazione fisica. E musica ce lo metto io, perché poi sono vari binari, diciamo, storia su cui dell'arte ci si può musica, perdere, ma c'è sempre poi una musicalità alla base di questi contributi, come quello che ci è arrivato anche questa volta puntuale da Angelo, che salutiamo, applauso. Ciao, Gabo. Per cui siamo qui, mandiamo una nuova puntata di Artifici, riprendiamo il discorso, Angelo riprende il discorso su arte e committenza, quindi continua la saga. L'altra volta avevamo parlato di Giotto, adesso si parla anche di come appunto sfugge un po' a questa committenza a modo suo. Vediamo un po' cosa ci combina quindi Veronese. E dal punto di vista di Angelo partiamo quindi con la sigla di Artifici, vai. Grazie Angelo, grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Bentornati alla pillola di Artifici. Ho perso il conto di quante pillole abbiamo già prodotto, ma non ha importanza. E anche oggi ci ricolleghiamo al discorso che stiamo facendo da un po' di tempo, cioè discorso che riguarda il rapporto tra arte e committenza. È un argomento molto vasto del quale si potrebbe parlare a lungo e nel quale possono convergere tanti discorsi. Ci tengo a sottolinearlo perché penso sia importante fissare questo concetto, cioè la committenza ha determinato l'arte fin dal suo sorgere e fino a poco più di 150 anni fa, perché abbiamo già detto che furono gli impressionisti, quindi nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, a staccarsi dalla necessità di avere una committenza per affrancarsi da questa necessità di avere una committenza per produrre arte. Torniamo al nostro discorso. Allora, ecco, per dare plasticità e concretezza a questo discorso, io ho parlato, abbiamo parlato prima di Giotto, il ciclo di affreschi di Assisi, e il ciclo di Padova, Cappella degli Scrovegni. ad Assisi abbiamo visto un Francesco che per volontà della committenza si presenta in maniera assolutamente diversa, opposta a quello che Francesco era, cioè era perché l'ordine dei francescani e anche la curia, la chiesa di Roma, avevano forte interesse affinché la figura rivoluzionaria di Francesco non venisse tramandata nei secoli successivi. L'obiettivo non è stato centrato, però ci hanno provato. E quindi dicevamo di un Francesco che viene rappresentato da Giotto in maniera sempre inserito nei contesti urbani, vicino ai palazzi del potere civile e religioso. Un Francesco che aveva un asino. Lui e l'asino erano ben bardati da mantelli, i suoi compagni pure. Quindi un Francesco possidente, perché alla Chiesa premeva non far passare troppo il messaggio che la Chiesa dovesse essere povera, come di recente ha detto il Papa attuale, che il fatto che abbia detto questo non lo libera da tanti dubbi. Vabbè, lasciamo stare, è un discorso che andrebbe troppo oltre. Torniamo quindi a queste analisi di singole opere per affrontare il discorso della dipendenza fra arte e committenza. La volta scorsa avevo chiuso suggerendo di andare a guardare un po' la ultima cena di Paolo Veronese, nota anche come convito in casa di Levi. Qualcuno poi al termine della pillola ha detto: ah, mo ci sono anche i compitini. Io lo chiamerei questo qualcuno per vedere se ha studiato, ma lasciamolo stare. Allora, l'ultima cena di Veronese è del 1573. È opportuno capire un po' il clima che c'era, ricordare il clima che c'era in quell'epoca. E nel 1517 Martin Lutero aveva affisso alla porta della cattedrale di Wittenberg le sue famose 95 tesi, con le quali si è dato l'avvio alla riforma protestante. Come risposta, la Chiesa Cattolica ha aperto il Concilio di Trento, che si è svolto fra il 1546 e poi è durato quasi 20 anni. Un altro, e quindi insomma, l'avvio del protestantesimo è stato un fatto epocale. Un altro fatto epocale che risale a quella generazione, a quei tempi, avvenne nel 1527. Ci riferiamo al sacco di Roma. Roma era stata aggredita oltre 1000 anni prima, nel 410, da Alarico, dai Goti. E quindi per 1000 anni era stata ritenuta città eterna, inespugnabile, inattaccabile, se non altro perché era proprio sede del papato. Nel 1527 arrivano i lanzichenecchi che saccheggiano Roma. Per capire l'impatto, io ho detto altre volte che è bene assimilare l'evento ai fatti dell'11 settembre 2001, quando negli Stati Uniti furono abbattute le torri gemelle. Ecco, gli Stati Uniti, un paese con una politica imperialista simile a quella di Roma e a quella papale, e che subisce un attacco e quindi mostra tutta la sua vulnerabilità. Vedo che il tempo scorre, andiamo alla tela di Veronese. Veronese, nel rappresentare l'ultima cena, intanto l'ambienta in un lussuoso palazzo cinquecentesco, molto simile ai palazzi di vescovi e cardinali. Si tratta di un'ampia terrazza dalla quale, sullo sfondo della quale, oltre la quale ci sono i palazzi di Venezia, lussuosi, belli. C'è questa immagine, questa scena che si svolge sotto tre arcate. Nell'arcata centrale c'è una tavola con i 12 apostoli, ma a fianco, nelle altre due arcate laterali, Veronese inserisce una serie di elementi, ma di sua fantasia, perché a Veronese piaceva dipingere in maniera gioiosa e quasi giocosa, e inserisce dei soldati tedeschi armati, inserisce un nano, inserisce un servo che, al quale esce sangue dal naso, inserisce animali. E questa tela fu messa all'attenzione, fu portata all'attenzione della Inquisizione. L'Inquisizione era preposta anche al controllo delle opere d'arte. E cominciarono quindi, l'Inquisizione convocò Veronese chiedendogli conto di questi elementi che apparivano dissacratori rispetto all'argomento rappresentato. Veronese ebbe il guizzo di dare una risposta, si difese ovviamente, nelle cose che disse ne disse una che è molto significativa, e disse: noi pittori si pigliamo licenza che si piglino i poeti et i matti, cioè preferì passare per matto, per poeta, quindi evidentemente all'epoca era la stessa cosa, pur di sfuggire alle censure dell'Inquisizione. Per fortuna a Venezia l'Inquisizione era meno rigida che altrove, e il giudizio si limitò, il processo si limitò con una condanna nei confronti di Veronese, imponendogli che cambiasse titolo all'opera, quindi non Ultima Cena, ma Cena in casa di Levi, di Matteo, uno degli apostoli, e tutto si salvò. È già scaduto il mio tempo, la prossima volta parliamo di Caravaggio. Arrivederci. Radio Parte Centocelle Avengers, giusto il tempo di salutarci e darti appuntamento grazie ai Nautica tutti, 17, 18, 19 di questo mese, che ci terrà impegnati, non l'abbiamo detto neanche un attimo, anche se tanto buon vino ci sarà ai Nautica. E niente, questa è la sigla severa che arriva quando noi siamo in orario, e niente, ci vediamo tra due settimane, la puntata la trovate in podcast sul sito forteprenestino.net. ciao a tutti, ciao, ciao. Tutti. ciao. Yeah!